Salve a tutti cari amici e bentrovati dal vostro speaker vagabondo Fumino e benvenuti alla 18ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Oggi mercoledì 20 febbraio dell'anno politico 2027, eccomi qua a fare un esperimento sociale riguardo alla nuova puntata del Vagabondo in giro per il mondo. Di cosa si tratta questo esperimento sociale? Non ve lo dico, bene, o ve ne accorgete da soli o altrimenti magari me lo chiedete per scritto in qualche modo e forse vi farò puntare il focus su quello che è l'esperimento della puntata. Ma in ogni caso, bando alle ciance, come si suol dire. Cosa mi ha mosso durante questo periodo? Durante questo periodo mi ha mosso assolutamente una serie televisiva. Per me è un fatto abbastanza strano perché sì, ne guardo, ma difficilmente mi appassiono più di tanto. Bene, ho visto della roba di una serie televisiva molto molto interessante che mi sento addirittura di consigliarvi di vedere, di quantomeno dare un'occhiata agli episodi e se poi vi intrigherà, se poi vi piacerà continuare con la visione. Intanto vi premetto, la serie in questione si intitola Black Mirror, probabilmente qualcuno di voi l'ha già vista, l'ha già sentita o anche solo per sentito dire, se non addirittura quasi tutti lo avete fatto, però io intanto ve lo dico anche io, quindi se mi volete dare retta, se volete seguire i segnali, questo è il segnale che io vi do. Black Mirror, annotatevi questo nome. Non ci sono problemi per quanto riguarda l'inizio o la fine della serie, perché è una serie da questo punto di vista geniale. È una serie, quello che lega il fil rouge di tutta la serie è l'argomento, il macro argomento, che è la tecnologia, il futuro e quello che potrebbe succedere nel mondo se. Un altro argomento che mi hanno fatto notare è molto frequente nel come filo conduttore degli episodi, o comunque come miccia, nemmeno come filo conduttore, come miccia degli episodi, è il sesso. Quindi mettere insieme questi due ingredienti e viene fuori un prodotto assolutamente interessante. L'aspetto particolare della serie è che ogni episodio è scollegato fra di sé e addirittura cambiano sempre gli attori, non ci sono mai gli stessi attori, non c'è mai un episodio legato dagli attori o dalla storia ad un altro. Quindi se vi va, iniziatelo pure, sono 3 stagioni, una serie cortissima, iniziate pure dalla puntata che vi pare, potete farlo, visto che se lo farete non avrete problemi. Fatto sta che cosa è che mi ha spinto a parlarvi di questa serie durante il Vagabondo? Bene, assolutamente il fatto che il futuro che ci dipingono in questa serie è un futuro quantomeno verosimile, ma addirittura, cosa ancora più spaventosa fra virgolette, perché in realtà non c'è molto da spaventarsi nella serie, ma c'è molto da pensare, è che in alcuni episodi appunto quello che viene raffigurato non è prettamente il futuro, non è proprio il futuro per forza, ma potrebbe essere assolutamente anche il presente tranquillamente. Ad esempio, il primo episodio della prima serie è una storia molto particolare, non starò a spoilerare assolutamente niente, però è una cosa che inquietante, perché se accadesse davvero lo sarebbe, e pensandoci bene potrebbe effettivamente accadere da un momento all'altro anche nel nostro presente, anche se chiaramente essendo un film ci sono delle parti che sono praticamente impossibili che avvengano, però la macro storia, il filo conduttore del primissimo episodio della serie è una cosa tangibile che potrebbe davvero accadere adesso, in questo momento. Bene, a parte questo, in realtà la puntata che mi ha fatto pensare di parlarvene è stata in realtà l'ultima della terza serie. Perché? Perché dipinge una cosa del futuro che è sì del futuro, ma che in realtà sta già succedendo, quindi diciamo è un futuro in divenire, almeno dal mio punto di osservazione. Non so voi se avete mai fatto caso a questo, però io già nel Vagabondo vi ho parlato svariate volte di questo argomento, e tra l'altro prima di vedere questa puntata che ho visto solamente negli ultimi giorni. E qual è l'argomento in questione? È l'internet, i social network, le persone che si sentono il giustiziere della notte da tastiera, sempre comunque pronti a sparare sentenze su questo e su quello, pronti a fare gli esperti su questo e su quello. Bene, in questa puntata cosa ci fanno vedere? Ci fanno vedere che un pazzo criminale, il pazzo criminale di turno chiaramente, ci spinge tramite i social network ad odiare le persone. E in base alla persona più odiata, lui poi tramite un sistema X riesce a uccidere la persona che in una settimana è stata più odiata dagli utenti dei social network. E questo è tutte le settimane, lancia una persona nuova, nuovi obiettivi, e le persone più si accaniscono contro uno, praticamente in maniera indiretta, ma forse nemmeno più di tanto, ne decretano la morte. Allora, chiaramente è un film, quindi non è che c'è da prendere che come oro colato, però quello che io ho notato e che mi ha fatto molto pensare è che in effetti è una cosa che è successa il giorno dopo. Il giorno dopo, leggendo dei quotidiani online locali, quindi roba di paese, si parlava di un personaggio X che avrebbe in qualche modo dato fastidio a delle persone. C'erano dei commenti su questo articolo molto raccapriccianti, forse ancora più raccapriccianti del fatto stesso, ammesso che il fatto stesso fosse poi in realtà accaduto, perché poi pare che non sia nemmeno accaduto niente. Fatto sta che chiaramente i soliti giustizieri da tastiera, giustizieri 2.0, i giustizieri comodi seduti nel proprio ufficio o nel proprio divano con il computer davanti, si sono subito scatenati contro un ipotetico X qualunque, che probabilmente nemmeno sanno chi siano, augurandogli le peggio cose, la morte, o le malattie o cose così. E sinceramente a me mi ha fatto anche un po' impressione, perché un po' era perché avevo visto il giorno prima questo episodio e ho pensato: cavolo, ma è un futuro che allora non è nemmeno così tanto lontano. Cioè, alla fine sì, non c'è il finale che poi quello viene ucciso da un assassino psicopatico, però le persone sono così, cioè siamo così, siamo portati a essere giustizieri. L'empatia dove è andata a finire? Non lo so, non ci caliamo più nel dramma di magari di una persona, ma l'unica cosa che ci interessa è vedere la giustizia però a modo nostro. Cioè, alla fine, cosa è successo sempre in questi giorni, che anche lì mi ha fatto pensare, perché è successo dopo che io avevo visto questo episodio. Non so se avete letto, probabilmente sì, perché è una notizia a livello nazionale, a Vasto, quella persona che in preda alla disperazione, a tutto quanto, ci mancherebbe altro, ha ucciso la persona che qualche mese prima, in un incidente stradale, aveva causato la morte della moglie. Non c'è più nemmeno l'omicidio colposo a questo punto, cioè mi viene da pensare, perché pare che questa persona fosse stata per mesi additata in maniera pesante per questo incidente, ma alla fine a questo ragazzo, tra l'altro un ragazzo molto giovane, erano stati fatti controlli subito dopo l'incidente. Questa persona non aveva assunto droghe, non aveva assunto alcolici, era perfettamente sobria, sana di mente e tutto quanto. Avrà sbagliato, avrà, non lo so, passato un semaforo col rosso, ci mancherebbe, però era un incidente stradale, cioè di fatto, cioè, era una morte casuale, e questo ragazzo è stato assassinato a sangue freddo da questa persona che chiaramente, boh, probabilmente una disperazione avrà dentro di sé, io non sto a giudicare né quello né l'altro, però l'ha portato a commettere un omicidio a sangue freddo, cioè, che è una cosa molto diversa. E leggendo i commenti dopo l'omicidio, allora veniva fuori a leggere la notizia che in questi mesi era stato più volte augurato la morte di questo ragazzo, e dopo l'omicidio addirittura ci sono svariate persone che hanno commentato con favore la vendetta personale, cioè, quindi, ma non è io non so, io non riesco a concepire la morte, cioè, in questo caso, cioè, uccidere una persona, io non riesco a capire dove ci possa essere il giusto nell'uccidere una persona. Secondo me non è giusto nemmeno che lo faccia lo Stato, con la pena di morte, quindi cioè proprio secondo me è una cosa che non esiste, quindi io non riesco a capirla, non arrivo a capirla, ma addirittura esultare per un omicidio a sangue freddo mi sembra veramente pazzesco. E non so, boh, mi ha fatto molto pensare per l'appunto dopo che avevo visto questo episodio, e allora ho iniziato a pensare forse questa serie è molto più potente, molto più lungimirante di quello che sembra, e vi garantisco che per quello che succede nell'arco delle, non so, 13-14 puntate che sono in totale, se così fosse sarebbe un gran casino, non saremmo davvero molto al sicuro secondo me, quindi non lo so. Beh amici, anche alla fine di questa puntata finisco un po' mesto, perché parlando di questi argomenti un po' mi rattristisco pensando al futuro dell'uomo e alla deriva che mi sembra che stiamo prendendo. Però detto questo, vabbè, io non mi resta altro che augurarvi di essere tranquilli e felici, di avervi messo la curiosità di andare a sbirciare questa serie. Vi ricordo il nome, Black Mirror, se avrete voglia di dargli un'occhiata. Mi auguro che abbiate capito qual è l'esperimento sociale che ho annunciato all'inizio della puntata, e mi auguro soprattutto che da qui al prossimo mercoledì, per la prossima puntata del Vagabondo, sarete saggi. Grazie a tutti.